Focus Economia. Con Simone Spezia. Ascoltatrice, cari ascoltatori, buonasera da Simone Spezia e benvenuti a questa nuova puntata di Focus Economia. 349-238-6666 come sempre per i vostri sms. Qualcuno già inizia ad arrivare, ringrazio Marco, teniamola là tra noi Marco, ringrazio Marco per i complimenti, si fa per dire naturalmente. Di cosa parleremo in questa puntata? Parleremo dei tagli di spesa, della famosa spending review che assume un po' l'apparenza. Domani iniziano gli incontri di Renzi con i ministri per ragionare su dove e come tagliare, però a dire la verità ha tutta l'apparenza più che di una spending review, che termine con il quale si intende l'andare a guardare all'interno dei singoli bilanci, dei singoli capitoli di spesa dello Stato e andare a ragionare in quei singoli capitoli di spesa su cosa si può effettivamente tagliare. È un'operazione chirurgica, qua ha tutta l'aria di un taglio lineare di spesa, perché si parla di un 3% per tutti i ministeri, che tagli che abbiamo esecrato in passato, sono stati esecrati in passato. Ne parleremo naturalmente con Nino Pesola del Sole 24 Ore, che insomma su questi temi ci accompagna sempre. Parleremo della Scozia, di questo avvicinarsi del referendum per la secessione scozzese. È un testa a testa, c'è un 23% di indecisi, saranno quelli che decideranno veramente, e vedremo di capire l'impatto economico, perché oggi ci sono anche delle dichiarazioni del presidente, del governatore della Bank of England a proposito di questo, delle dichiarazioni di preoccupazione soprattutto per la Scozia, perché dice attenzione, la vostra ipotesi che possiate rimanere con la sterlina, col pound, qualora ci fosse la secessione, non è un'ipotesi praticabile. Vedremo di capire anche quali potrebbero essere gli effetti economici per la Scozia e per la Gran Bretagna, perché non scordiamoci che sono di pertinenza della Scozia anche una serie di pozzi e impianti petroliferi offshore che naturalmente alla Gran Bretagna potrebbe dispiacere perdere. E poi parleremo della TASI, come non parlare della TASI. Abbiamo una serie di comuni discretamente in ritardo, perché la scadenza è tra più o meno 24 ore, poco più di 24 ore, una trentina di ore, e molti ancora non si sono messi in regola, nel senso che non hanno fatto la delibera con la quale decidono qual è l'aliquota della TASI. L'idea che sta circolando adesso, ma i calcoli definitivi si potranno fare ovviamente solo alla fine, solo quando avremo pagato, è che questa TASI costerà più dell'IMU. Tra l'altro molti comuni, più o meno la metà dei comuni, non ha deciso detrazioni di alcun tipo, e mentre invece per quanto riguarda l'IMU le detrazioni erano previste. È chiaro che sono due tasse diverse, hanno un senso diverso, le detrazioni erano previste a monte dallo Stato. Ulteriore aggiunta, c'è un problema di trasparenza, nel senso che i comuni dovrebbero indicare con precisione dell'incasso della TASI quanti soldi vanno ad ogni singolo capitolo di spesa, perché sono i cosiddetti servizi indivisibili, ma i comuni almeno grossolanamente li devono suddividere. Ecco, su questa trasparenza a quanto pare c'è qualche problema. Il consiglio che possiamo dare è: esigete dai vostri comuni che vi diano trasparenza su queste spese. Comunque questo sarà il tema che affronteremo poi nella seconda parte della trasmissione. I mercati sono negativi. Milano perde lo 0,6% sul FTSE MIB, lo 0,6% anche sul FTSE OSHER, Parigi cede lo 0,42%, Francoforte lo 0,38%, Londra lo 0,16% dopo il calo piuttosto netto ieri, dovuto appunto al primo sondaggio che dava in vantaggio gli indipendentisti scozzesi sugli unionisti. Oggi bene Telecom Italia, Italia, più 3,10, Finmeccanica, più 2,05, A2A, più 1,93, Fiat, più 1,72, in fondo al listino Monte dei Paschi, meno 4,6, la Popolare Emilia Romagna che cede il 3,6, e CNH il 3,5, ST Microelectronics il 3,12, euro a quota 1,29,23 contro dollaro. Le notizie in breve di oggi. Informazioni, non vi preoccupate, Sebastiano Barisoni torna domani. Intanto, se volete, potete continuare a scrivere 349-238-6666. In apertura, come sempre, le materie prime: l'oro sale dello 0,2%, $1,260 l'oncia, il petrolio di mezzo punto percentuale a $93,2 al barile. A proposito di petrolio e non solo, ci sono i dati forniti oggi dall'ONU, ve ne abbiamo parlato anche all'interno dei giornali radio. Nel 2013 ci sarà un nuovo record per i gas effetto serra, CO2 in crescita, la concentrazione in atmosfera ha raggiunto il 142% rispetto al livello preindustriale, mentre metano e ossido di azoto sono rispettivamente il 253% e il 121% in più rispetto ai livelli prima del 1750. Allora, sì, sicuramente in crescita. Diciamo che la misurazione di CO2 del 1750 probabilmente era un po' spannometrica, quindi insomma, prendiamo questi dati per quello che sono, dati che ci lanciano un segnale, ragioniamoci sopra. Parlano dall'ONU di un forte campanello d'allarme per tutti i paesi. Sempre dal lato dell'economia internazionale, Moody's ha tagliato da stabile a negativo l'outlook sul rating del Brasile, ossia le prospettive sul giudizio che dà sul Brasile. L'ha modificata alla luce di un aumento dei rischi che il paese sudamericano stia entrando in una fase di bassa crescita e poi c'è un calo della fiducia degli investitori. Si diceva del governatore della Bank of England, Mark Carney, apre la possibilità di un incremento dei tassi di interesse a partire dalla prossima primavera e interviene sul tema, come si diceva, del referendum per l'indipendenza della Scozia. Dice che il mantenimento della sterlina sarebbe incompatibile con il raggiungimento della sovranità da parte di Edimburgo. Sui tassi ha citato le stime fornite il mese scorso dalla stessa Bank of England, dalle quali emergeva che con un rialzo in linea con le attese del mercato, cioè dalla prossima primavera, l'inflazione si porterebbe in tre anni verso il target fissato dalla banca al 2%. A proposito di Scozia, ci sono anche le analisi che arrivano per esempio da Credit Suisse, che dice che la nuova Scozia si troverebbe subito a fronteggiare una pesantissima crisi economica, con rischio di svuotamento dei conti correnti e salari in discesa anche del 10%. Vicende più strettamente europee o correlate all'euro, c'è il discorso al Parlamento sul budget 2015 del ministro delle finanze tedesco Wolfgang Schäuble, discorso nel quale non ha fatto mancare, come non aspettarselo, qualche elemento a proposito della Banca Centrale Europea. Troppa fiducia nelle misure messe in campo dalla BCE, dice, potrebbe allentare l'impegno per realizzare le riforme. mette in guardia dal cosiddetto rilassamento della disciplina fiscale, ossia dei vincoli di bilancio. Non si possono comprare posti di lavoro e crescita con il denaro pubblico, dice Schäuble. Ancora, ogni paese deve aumentare la propria competitività per conto suo. E poi parla del risanamento dei conti tedesco. Proseguiremo, nonostante le tensioni geopolitiche e i contraccolpi congiunturali, puntiamo a mantenere l'obiettivo del pareggio di bilancio nel 2015. A proposito del confronto anche con i tedeschi, ci sono le dichiarazioni, la presentazione di un rapporto dell'OCSE sulle piccole e medie imprese. Sergio Arzeni, che è il direttore del Centro per le Piccole e Medie Imprese dell'OCSE, dice: le imprese tra i 50 e i 250 dipendenti, quindi le medie, non le piccole, in Italia sono più produttive di quelle francesi, inglesi e anche tedesche, e rappresentano un terzo dell'export italiano. E però sono solamente lo 0,5% del totale, mentre in Germania sono il 2,5%. Sarebbe meglio, dice, che riuscissero almeno a raddoppiare. Sempre sull'Italia ci sono i dati sulla disoccupazione, quelli arrivati però in questo caso dal Ministero del Lavoro. I nuovi rapporti di lavoro avviati nel secondo trimestre dell'anno sono stati 80.600 in più rispetto al secondo trimestre 2013. Scendono i licenziamenti dell'8,6%. E crescono lievemente i rapporti di lavoro cessati, dello 0,3%. A proposito di lavoro, lo stesso Sergio Arzeni dell'OCSE, che citavamo un attimo fa, dice che se volete rimettervi in piedi dovete aggiornarvi. In Germania la formazione si fa in azienda e funziona. La cosa più importante è intervenire sulla formazione e l'apprendistato in azienda. Crediamo che il governo italiano dovrebbe ispirarsi al modello tedesco. E un segnale in questo senso, a dire il vero, lo dà anche la ministra dell'istruzione Stefania Giannini oggi in un'intervista al Sole 24 Ore. Tra l'altro la stessa OCSE ha diffuso i dati sull'istruzione, migliora la qualità dell'istruzione di base e tra il 2003 e il 2012 è diminuita la percentuale dei quindicenni con un punteggio basso e sono aumentati i più bravi. E però rimaniamo in matematica e in lettura, secondo i dati dell'OCSE, i test PISA, rimaniamo rispettivamente al penultimo e all'ultimo posto tra i paesi OCSE. Sentiamo un commento al rapporto da Francesco Avvisati dell'OCSE, autore appunto della parte di questo documento relativa all'Italia. Lo ha intervistato Alessandra Schepisi. Credo sia importante sottolineare che la direzione è verso un miglioramento, ci avviciniamo alla media degli altri paesi europei se prendiamo come dato di riferimento la competenza dei ragazzi di 15 anni nelle prove matematiche dello studio PISA dell'OCSE. Restiamo molto al di sotto se guardiamo le competenze medie della popolazione adulta in Italia, anche per esempio se guardiamo le competenze dei laureati italiani in matematica. Misurate dallo studio PISA, vediamo che sono al livello di quello che viene raggiunto in altri paesi come la Finlandia, i Paesi Bassi o il Giappone dai diplomati di scuola secondaria. Piccoli progressi nei livelli di apprendimento degli studenti solo nella matematica? No, i progressi li vediamo anche nelle scienze, in misura minore nelle competenze di lettura. C'è stato un miglioramento importante soprattutto nelle scienze, ma la tendenza anche che vediamo tra gli adulti appunto è che i più giovani tra gli adulti vanno meglio rispetto ai più anziani, il che tende a sottolineare che c'è stato un miglioramento un po' generale della qualità della preparazione di base. Insomma, noi stiamo misurando competenze di alfabetizzazione matematica e di comprensione dei testi a livello della popolazione negli ultimi anni. Ed ecco. Eccoci, allora prima del primo tema, il taglio della spesa, qualche risposta agli sms. Allora innanzitutto quelli personali, per così dire. Chi ha colto un tono permaloso quando rispondevo a chi chiedeva di Barisoni non ha capito, non c'è nessun tono permaloso, figuriamoci. Agli ascoltatori invece che mi dicono a proposito della misura della CO2, io vi ringrazio perché quando c'è l'ignoranza, perché non è che possiamo sapere tutto, l'ammetto, vengono fatti quelli che relativi al 1750, si diceva prima, ho detto erroneamente spannometrici, mi dicono vengono fatti coi carotaggi nel ghiaccio, quindi sono precisi. In Antartide. Infine, non male la battuta, ma poi la TASI ci arriviamo, che sarebbe l'imposta appunto sui servizi indivisibili del comune. C'è un ascoltatore della capitale che ci dice: da noi è l'imposta sui servizi invisibili. Non è male. Dino Pesaro del Sole 24 Ore, ciao, buonasera. Buonasera Simone. Allora, parliamo di tagli di spesa, di spending review, ma si diceva prima è che almeno dalle dichiarazioni di Renzi, da questo giro di incontri che sta partendo con i ministri a partire da domani insieme al ministro dell'economia Padoan, non sembra propriamente una spending review, ma sembra più che altro un taglio lineare vecchia maniera. C'è il rischio, perché lo stesso Renzi nell'intervista al Sole 24 Ore della settimana scorsa, quando parlava di tagli del 3% per ogni ministero, faceva intendere che forse, se non saranno proprio lineari, saranno semilineari, cioè ci si cercherà di individuare magari dei ministeri in cui la forbice potrà agire in modo meno invasivo, però insomma sostanzialmente il rischio che si vada in quella direzione c'è, ma in ogni caso siamo ancora alle fasi preliminari, perché si parte dalle indicazioni di metodo dalle proposte del commissario Cottarelli, che però sono proposte, quindi vengono da un tecnico, e come sappiamo poi le operazioni di taglio alla spesa pubblica sono di primaria competenza della politica. E dunque ci sarà un primo giro d'orizzonte con tutti i ministeri, che ovviamente si potrà presumere fin d'ora che non sarà proprio un giro di orizzonte in cui ci sarà dell'entusiasmo, perché quando si tratta di tagliare ci saranno resistenze, ogni ministero comincerà a dire, la Lorenzin l'ha già detto, la sanità non si tocca, ci saranno le infrastrutture che grideranno alla priorità degli investimenti, ci sarà l'istruzione che giustamente invocherà l'esenzione dai tagli. Alla fine bisognerà in qualche modo tirare le somme di un'operazione che comunque si annuncia molto complicata, molto complicata, perché per quanto riguarda i ministeri probabilmente ci si muove attorno a una cifra che potrebbe essere di 6-7 miliardi, è una cifra molto, molto imponente, ma è una piccola cifra se pensiamo che l'obiettivo del governo è di inserire in questa legge di stabilità, vale a dire a ottobre, cioè tra un mese, sì, un complesso di interventi che vale 20 miliardi. Allora dove recuperare un volume così importante di risorse in una sola tornata, perché la legge di stabilità è per ora esercizio che ancora non è chiaro. Perché tra l'altro Dino, qua cito un ragionamento che faceva l'ex ministro Piero Giarda, a sua volta responsabile della spending review, in un'intervista oggi al Corriere della Sera, dice: occhio, perché quando fai tagli di spesa gli effetti non si dispiegano immediatamente, a volte richiedono addirittura anni. Questo è verissimo, lo stesso Giarda nel suo ultimo rapporto aveva quantificato la spesa potenzialmente aggredibile, così la definì, attorno a 100 miliardi, ovviamente tenendo fuori le spese sociali, cioè le prestazioni sociali. Ma il punto fondamentale è anche un altro, è che i tagli alla spesa, soprattutto se sono lineari, sono recessivi, Cioè, anche questo bisogna tenere ben presente, quindi per questo bisogna calibrare bene, ed è proprio il compito della spending review, se vogliamo. Tradotto in italiano significa selezione, riduzione selettiva della spesa, che è il compito della politica. Cioè, in un bilancio pubblico che consta di 810 miliardi, lì dentro evidentemente c'è da tagliare, però bisogna valutare con grande attenzione dove andare a tagliare, perché se ad esempio si agisce sul terreno delle pensioni o delle prestazioni sociali, ed è tutto evidente che ci sarà un impatto, ma anche tagli che possono sembrare a prima vista, come dire, indolori. La stessa riorganizzazione delle agevolazioni fiscali, e anche questo rischia di essere recessivo. Quindi certo. Ma penso, tanto per dire, Dino, a un ragionamento che facciamo sempre, che è quello dei costi standard in sanità. Là rischia di andare a toccare, per esempio, una serie di contratti in essere che delle aziende che forniscono la sanità, che forniscono il settore sanitario, hanno. E questo, anche questo, per esempio, può rappresentare un problema anche dal lato dei diritti acquisiti. Cioè, nel senso che ci sembrano soluzioni semplici, poi in realtà l'immediatezza non è così come ci viene raccontata. È molto vero quello che dici, e detto questo ci sono dei settori in cui si può intervenire. Lo stesso Cottarelli ha fatto un elenco di oltre 2000 partecipate degli enti locali che si possono sfoltire. Si può immaginare un dimagrimento delle dotazioni dei ministeri. Secondo me, con ogni probabilità, si agirà anche sul fronte della spesa degli enti decentrati, e quindi ci sarà una compartecipazione un po' di tutti gli enti a questa operazione. Ma quello che più conta, e finora non è emerso, spero che emergerà nei prossimi giorni, è il disegno d'insieme. Cioè, 20 miliardi di tagli alla spesa in teoria si possono anche fare. Il problema è capire dove, con quali tempi, con quali margini concreti di realizzazione poi alla fine, perché un conto puoi scriverli in bilancio, se poi non si realizzano, capito? Cioè, quindi, come dire, adesso si mette in moto il convoglio, c'è non molto tempo, perché insomma entro metà ottobre va definita l'intera griglia, e faccio presente che questo peraltro è l'unica chance che ha il governo, perché per far fronte a una manovra di bilancio che si annuncia attorno ai 20-23 miliardi, altra strada non c'è, perché la strada alternativa sarebbe aumentare le imposte. Quindi, come dire, ci troviamo in una sorta di cul-de-sac obbligato, ma ancora non è chiara la direzione. Vediamo già a partire da domani cosa uscirà fuori. Eccoci di nuovo, qualche risposta agli sms, ci arrivano al 349-238-6666 a chi ci dice, quindi non bisogna tagliare perché altrimenti cala il PIL. Non abbiamo detto esattamente questo, il punto è dove si taglia, come diceva giustamente Dino Pesolo. Se vai a tagliare per esempio su detrazioni e deduzioni fiscali, rischi di avere evidentemente un effetto contrario, no? Perché la gente si trova molto semplicemente meno soldi in tasca. Roberto scrive a proposito delle pensioni d'oro, cosiddette pensioni d'oro, non se ne viene fuori se non ci si decide a toccarle. Là, come sa, c'è un problema, si può anche essere d'accordo, però c'è un problema di diritti acquisiti. La pensione d'oro toccata, il titolare di pensione d'oro toccata va a ricorrere in tribunale o addirittura alla Corte Costituzionale, si vede riconosciuta la pensione che aveva prima. Infine, a chi ci dice i minori esborsi per le casse dello Stato legati al calo dello spread e quindi al calo degli interessi, il fatto che paghiamo meno interessi sul nostro debito, che fine fanno? Là c'è un punto, ossia che teoricamente da regole di bilancio europee quei soldi dovrebbero andare a riduzione del debito, non possono andare a, per esempio, riduzione del deficit, tanto per dire, e non possono essere usati per altri scopi in sostanza. A quanto pare il governo era anche in trattativa un po' con l'Europa su questo tema. La Scozia, mancano 10 giorni al referendum per decidere se porre fine all'unione con l'Inghilterra, che dura da 307 anni. Sondaggio di ieri che ha spaventato in parte anche i mercati, quantomeno quello britannico, danno i sì alla separazione al 51%, qualcosa di solo lievemente più tranquillizzante oggi, dove, scusate, si parla di un testa a testa e un 23% di indecisi. Leonardo Maisano, corrispondente a Londra del Sole 24 Ore, buonasera e ben ritrovato. Buonasera a voi. E saluto anche Silvio Peruzzo, Senior European Economist di Nomura International, che è in collegamento con noi da Londra. Peruzzo, buonasera anche a lei. Buonasera. Allora, ci sono una serie di rapporti di, se vuole, suoi colleghi, Peruzzo, insomma, da Credit Suisse a Goldman Sachs, che dicono che se la Scozia divenisse indipendente si troverebbe, qua parliamo di Credit Suisse, subito a fronteggiare una pesantissima crisi economica con rischio di svuotamento dei conti correnti e salari in discesa anche del 10%. Goldman Sachs si troverebbe, secondo Goldman Sachs, la Scozia si troverebbe ad affrontare significativi aggiustamenti di bilancio che verosimilmente si tradurrebbero in una riduzione dei servizi erogati. Premio Nobel per l'economia Paul Krugman sul New York Times: rischi di andare da soli sono enormi, pensate che la Scozia possa diventare come il Canada, ma è molto probabile che diventi invece come la Spagna, però senza il sole. Ad aggiungere, si aggiunge a tutto questo il governatore della Bank of England, Mark Carney, che oggi ha detto: se c'è la secessione, scordatevi di rimanere nella sterlina. Voi di Nomura, lei come la vede? Sicuramente in un contesto di incertezza le visioni sul futuro lasciano il tempo che trovano, però è importante soprattutto sui mercati avere una baseline, soprattutto per coloro che devono decidere cosa fare dei loro investimenti in Inghilterra e in Scozia. La nostra view di base è che il risultato sarà molto molto bilanciato in termini di proporzioni tra coloro che votano sì e no, ma con una maggioranza molto molto slim di coloro che votano no all'indipendenza. Detto ciò, abbiamo naturalmente previsto una serie di policy di assicurazione per diversi investimenti che proponiamo ai nostri clienti e anche noi a livello di banca nel caso in cui quindi in sostanza, come dire, nel caso di indipendenza una sostanziale fuga di capitali la vedete dalla Scozia? Sì, soprattutto relativa al fatto che c'è una grossissima incertezza rispetto a quello che sarà l'assetto monetario della Scozia. Se non avranno più una banca centrale, dovranno rimanere in un sistema monetario che sicuramente sarà la sterlina, almeno inizialmente, con l'idea magari di avvicinarsi alla zona euro. Questa è un po' la posizione che è stata marcata da coloro che stanno guidando questo processo. Quello che è chiaro è che nel caso in cui l'indipendenza viene approvata ci sarà un processo di un lungo periodo di incertezza che avrà soprattutto ripercussioni sulla valuta e di rendimenti anche di quello che poi sono i titoli governativi inglesi, senz'altro. Leonardo Maisano, che cosa perderebbe invece la Gran Bretagna? Innanzitutto il petrolio. Beh, certo, il petrolio, l'85%, è stato calcolato che circa l'85% delle revenue del petrolio o del gas, sono comunque degli idrocarburi del Mare del Nord, andrebbero alla Scozia. D'altro canto poi ci sarà da dividere il debito nazionale, per cui una fetta del Regno, della Gran Bretagna, andrà alla Scozia. Su questo punto Alex Salmond, cioè il leader nazionalista e first minister del governo autonomo di Edimburgo, ha detto chiaramente: se voi non ci lasciate stare nell'unione monetaria, quindi mantenere il pound, che lui da nazionalista vuole assolutamente mantenere, noi non ci faremo carico di un centesimo del debito, quindi diventa già un punto di contenzioso enorme, cioè teniamo tutto il petrolio, teniamo tutte le revenue del Mare del Nord, voi vi tenete il debito perché, voglio dire, non ci lasciate stare nella sterlina. Su questo discorso della sterlina è dirimente, infatti oggi l'intervento di Mark Carney rischia di essere molto più significativo di quello di tutti i leader politici, perché se c'è un trend che non si è quasi mai spostato nell'andamento del mood e degli opinion poll in Scozia, è che gli scozzesi, indipendisti o no, non vogliono lasciare la sterlina. Se viene loro prospettato di abbandonare davvero la sterlina, il movimento a favore dell'Unione è netto. Leonardo, ma da un punto di vista di un banchiere centrale, io questo non ho capito, perché Carney ritiene che non sia possibile che la Scozia rimanga nella sterlina in caso di secessione? Voglio dire, evoca come dire, tutte le tra virgolette deficienze del sistema dell'unione monetaria europea, no? Cioè, dove ci sono strutture, come dire, mancanza di sovranità su certi aspetti, come dire, della vita politica, in particolare del tesoro, cioè il tesoro che sarà un tesoro indipendente, sarà un tesoro in che modo collegato, che genere di rapporti ci saranno tra il tesoro scozzese indipendente e il cancelliere britannico, e quindi in che modo potrà poi la politica fiscale essere modulata e in qualche modo poi essere, come dire, l'interfaccia o correlarsi con la politica monetaria. Tutti questi aspetti sono così tracciati vagamente, ma non affrontati nel dettaglio. Quindi il punto centrale è un'indipendenza assoluta con piena sovranità è sostenibile con un'unione monetaria, secondo Carney no, e secondo Carney no, proprio vegliando l'esempio della moneta unica europea. Questo è particolarmente interessante. Peruzzo, ultima domanda. Neanche voi vi sentite di dire che l'eventuale sfruttamento della sola da parte della sola Scozia di queste risorse petrolifere possa equilibrare un'eventuale uscita dal Regno Unito? No, assolutamente non crediamo che questo sia possibile. Condivido pienamente la lettura delle parole di Carney che Leonardo ha fornito. Aggiungerei che questo problema è molto più rilevante in un contesto in cui l'autorità monetaria ha intrapreso delle politiche non convenzionali, tra le quali l'acquisto di titoli di Stato, perché non avendo un'autorità fiscale coordinata in Scozia è impossibile pensare che la Bank of England possa continuare ad essere effettiva e credibile su due giurisdizioni che hanno delle autorità fiscali diverse. Vorrei anche dire che al di là di quello che abbiamo discusso su currency e titoli di Stato, c'è un problema significativo per quanto riguarda la Scozia, che è la sede di molte istituzioni finanziarie che hanno un peso rilevante all'interno del tessuto economico inglese e che hanno ricevuto dei fondi significativi durante la crisi, che sono in questo momento in mano al governo, quindi gestite da Londra in un certo senso. Quindi ci potrebbero essere gli effetti moltiplicativi di un all'interno dell'economia reale e del sistema finanziario di un sì all'indipendenza, che sicuramente sono molto importanti e sui quali è difficile quantificare in maniera credibile quelle che potrebbero essere le ripercussioni, ecco. Allora, ci sono molti sms sulla Scozia, cioè chi dice che la Scozia, chi chiede se la Scozia può diventare un nuovo paradiso fiscale, quindi meta di multinazionali, chissà, come l'Irlanda. Chi scrive, se tutte le banche evocano disastri vuol dire che la Scozia fa bene a rompere con Londra, i problemi sono solo per gli inglesi. Come avete sentito, in realtà non è proprio così. E come sempre in tutte le rotture traumatiche. Andrea Fontana, Radio Corriere Sole 24 Ore, buonasera, ciao. Buonasera a voi, ciao. Allora, giornata che non era malaccio fin verso l'una, e poi le cose sono peggiorate. FTSE MIB meno 0,68%, FTSE All Share meno 0,67%, negative anche le altre piazze finanziarie europee. Come mai? L'ingresso degli investitori americani proprio intorno appunto a metà seduta, al giro di boa della seduta, ha un po' penalizzato complessivamente l'Europa, tant'è vero che anche Wall Street sta vivendo una giornata piuttosto negativa, perde circa il mezzo punto percentuale, una giornata peraltro che in assenza di dati macroeconomici di rilievo che diano la direzione, ha portato il mercato a concentrarsi su elementi debolezza, un Brent sotto $100 al barile, un petrolio, uno scambio euro-dollaro che si è attestato lì intorno a quota 1,29 con momenti di debolezza sotto quota 1,29, e quindi insomma sull'azionario è prevalsa l'incertezza, ecco perché poi hanno finito per prevalere le vendite nel corso del pomeriggio. Per quanto riguarda i singoli titoli, abbiamo in cima al listino Telecom Italia più 3,04%, c'è anche Fiat adesso più 1,65%, ma in realtà appena sotto Telecom c'è stata per quasi tutto il giorno Finmeccanica che chiude con un più 1,5%. Iniziamo da Telecom. Per quanto riguarda Telecom, diciamo, la speculazione del mercato sul possibile arrivo di un'offerta congiunta da parte di dei principali operatori sudamericani della telefonia per la controllata brasiliana di Telecom, cioè Team Brasil, è chiaro che fa gola al mercato, accende le speranze del mercato, anche se per la verità fino a questo momento di fatti se ne sono visti pochi, e soprattutto le indiscrezioni che circolano parlano di un'offerta non così allettante dal punto di vista dell'entità economica, sì. Però il mercato ci crede, il guadagno è del 3% per quanto riguarda Telecom, già ieri avevamo visto come il titolo fosse caldo per questo motivo. Ed è un'altra ipotesi di cessione, non a caso le ho messe insieme prima, che spinge Finmeccanica, no? Sì, Finmeccanica guadagna l'1,6%, indiscrezioni oggi del Corriere della Sera parlano di questa offerta ormai pronta da parte di una cordata cinese di due gruppi, CNR e Insigma, che sono pronti a presentare l'offerta per due controllate, la Breda e Ansaldo STS. Ansaldo STS è l'unica delle due quotate e ha guadagnato oggi il 6,5%, è chiaro che sono dismissioni attese per la riduzione del debito di Finmeccanica per un po' il cambio di strategia nel settore del trasporto, e il mercato ha scommesso sia su Finmeccanica che su STS. Bene, Fiat come mai? I ragionamenti sulla Ferrari, le strategie che Fiat potrebbe mettere in atto per Ferrari una volta che sarà formalizzata, sembra si vada in questa direzione, l'uscita di Luca Cordero di Montezemolo dalla presidenza, è chiaro che aprono una serie di scenari per gli operatori, si parla di una quotazione in borsa, si parla di fare di Fiat, diciamo così, il fiore all'occhiello per quanto riguarda l'offerta di autovetture premium del gruppo, insomma il mercato inizia a ragionare e valorizzare la Ferrari in caso di quotazione, e questo spinge anche le quotazioni di Fiat, non quelle invece dell'altra ramo del gruppo, cioè CNH Industrial, che in assenza di indicazione di notizie positive perde il 3,6%. Sì, 3,6% per CNH. Tra l'altro, a proposito della vicenda Fiat, notizia di pura agenda, ma battuta adesso dalle agenzie, l'amministratore delegato di Fiat Marchionne e il presidente di Ferrari Montezemolo si sono incontrati oggi a Maranello. Questa notizia di agenzie, abbiamo visto in fondo al listino due banche in particolare, ma negativo è tutto il settore bancario. Allora, Monte dei Paschi perde il 4,5%, la Popolare Emilia Romagna il 3,6%, Mediobanca l'1,6%, UbiBanca l'1,3%, Banco Popolare l'1,3%, Unicredit l'1,25%, Intesa San Paolo lo 0,89%. Dopo diciamo, la grande euforia e la tensione sul settore bancario dopo le mosse della scorsa settimana della BCE, ora ci si sta un attimo calmando sul settore, qua su qualcuno si passa sui realizzi, ma soprattutto l'attenzione inizia a concentrarsi su quelli che saranno i responsi dello stress test della BCE e della valutazione sulla qualità degli asset che Francoforte dovrà fare in autunno, a breve, quindi le prime ipotesi da parte delle case d'affari su quali saranno gli istituti che supereranno o meno l'esame della BCE fa sì che si alimenti l'incertezza sui titoli. MPS è, diciamo, l'istituto italiano su cui ci sono più dubbi sulla sua capacità di superare questo test ed è quello più penalizzato da qualche giorno in borsa, oggi ha perso appunto il 4,5%. Grazie Andrea Fontana e Radio Cori, Il Sole 24 Ore, e buona giornata. Vabbè, la diamo come se ci avesse salutato, va. Altri titoli: ST Microelectronics giù del 3,10, SNAM dell'1,94, negativa Terna per l'1,32, Prysmian per l'1,27, nel Green Power per l'1,14, World Duty Free che cede 1 punto percentuale, così come Atlantia e così come Pirelli. Tods lo 0,96%, lo 0,9% Intesa San Paolo, come si diceva, giù Buzzi Unicem dello 0,7%, di 0,5 punto percentuale scendono Autogrill, Eni, Campari e Iux, oltre che Luxottica. 0,04 Saipem, Exor dello 0,3, Generali dello 0,31, Enel dello 0,05, Ferragamo dello 0,04 e positive Mediaset, Moncler e Mediolanum dello 0,67%, G-Tech su dell'1,05. Buonasera da Simone Spezia, benvenuti alla seconda parte di Focus Economia. Vedo molti sms che sono arrivati nel frattempo e sono arrivati prima sul tema delle pensioni d'oro, scatenato in realtà da un altro ascoltatore che ci aveva scritto via sms mentre parlavamo di spending review. Dicevamo che là c'è il problema da risolvere, l'ostacolo da superare dei cosiddetti diritti acquisiti, perché poi uno ricorre, se gli tagli la pensione ti ritrovi che quel risparmio che pensavi di fare non ce l'hai più. Molti criticano il meccanismo dei diritti acquisiti, però è là, e, insomma, ripeto, è un ostacolo difficile da superare, insomma, nel momento nel quale la Corte Costituzionale decide che una legge con la quale tagli le pensioni non è costituzionale, c'è poco da fare, insomma. E poi ci sta anche il ragionamento di chi dice, beh, insomma, anche ai pensionati normali i diritti che pensavano acquisiti gliel'hanno tolti. Comunque, anche questo è uno dei temi da approfondire, come da approfondire la questione di questa maledettissima TASI, la tassa sui servizi indivisibili dei comuni. Scade tra 28 ore, 30 ore, qualcosa di questo genere, il termine per i comuni per comunicare al Ministero delle Finanze il livello delle aliquote TASI. Scade il termine per approvare le delibere. Ci sono un po' di comuni ancora in ritardo, come sempre in Italia si arriva sul filo. Ed è pieno di cittadini,

ci sta simpatico ed è molto competente Guido Castelli, però Salvatore Padula mi sembra che no, qualcosina in più si potrebbe dire su come si sono comportati i comuni. No, quello che dice Castelli è vero, insomma, bisogna essere onesti, quello che dice Castelli è vero. Dal 2008 al 2013 i comuni hanno subito 17 miliardi di tagli tra minori trasferimenti dello Stato e tra, diciamo, contributi legati alla spending review e al rispetto dei vincoli del patto di stabilità. Quindi 17 miliardi in meno complessivamente, anzi cumulativamente in questi anni. Nello stesso periodo i comuni non hanno saputo fare, a mio avviso, quello che avrebbero dovuto fare, cioè imparare a spendere bene risorse che tendevano a diminuire, e quindi hanno poi, diciamo, scaricato sui cittadini attraverso la leva fiscale, abbiamo sentito, l'ha detto Castelli stesso, il gettito, diciamo, delle imposte sulla casa è passato da 9 a 24 miliardi, non tutto è andato ai comuni, comunque molto è andato ai comuni, e quindi, diciamo, di fronte a meno risorse, l'incapacità di tagliare le spese, hanno fatto la cosa più semplice ma anche più sbagliata, cioè quella di riversare sui cittadini l'onere di trovare queste maggiori risorse. È esattamente quello che sta succedendo in questi giorni. Stiamo, insomma, domani avremo appunto le delibere definitive sulla TASI in tutti gli 8.000 comuni, poi saranno comunicate entro mi sembra il 18 settembre. Quello che vediamo fino adesso, noi abbiamo fatto sul giornale di ieri una bella inchiesta su un campione di 4.500 comuni, dove risulta ad esempio che solamente poche centinaia di comuni hanno deciso di non applicare questa imposta, la TASI, sulla prima abitazione. Tutti gli altri l'hanno applicata, quindi oltre l'85% dei comuni comunque applicherà la TASI sulla prima casa, e l'aliquota media è praticamente al 2 per 1000. Questo fa sì che, per un complicatissimo discorso legato al fatto che la vecchia IMU per la prima casa aveva la detrazione fissa, mentre la TASI ha solamente detrazioni decise dai sindaci, e solamente un comune su tre ha deciso di applicare le detrazioni, fa sì che in alcuni casi la nuova TASI sarà più pesante della vecchia IMU, e questo, forse la cosa ancora più grave, che sarà più frequente per le case di valore minore, quindi, diciamo, presumibilmente per quelle che sono di proprietà di famiglie che meno benestanti, insomma. Allora, adesso una pausa come sempre a quest'ora per il traffico, e poi ritorniamo a parlare anche di questo caos, cioè al di là della quantità di denaro, la difficoltà, il labirinto nel quale dobbiamo districarci tutti noi da questo punto di vista, a seconda del comune nel quale abitiamo, e poi, ripeto, questo obbligo di trasparenza che in certi casi viene letteralmente disatteso e che qualsiasi cittadino, a mio personalissimo giudizio, dovrebbe ritenere inaccettabile. Ci fa notare Rino poi che questi famosi servizi indivisibili sono in realtà ben divisi. Anche su questo dovreste chiedere trasparenza ai vostri amministratori. Porta l'esempio di quello che suppongo essere il suo comune. Dice: comune di Pomigliano d'Arco, centro super arredato e pulito, centro antico sconnesso, sporchissimo e abbandonato, stessa aliquota, ma il servizio è diviso in maniera assolutamente iniqua. Si diceva, Salvatore, della confusione nella quale il cittadino italiano è precipitato di fronte a tutto ciò. Sì, questo hai ragione, forse è l'altro elemento come dire, che caratterizza purtroppo in negativo la vicenda di, legata a questa imposta. Tu prima dicevi io non so quanto dovrò pagare eccetera, ma come te siamo tutti, cioè diciamo sono veramente pochi quelli che sono in grado di riuscire a trovare la delibera del comune, andare a vedere qual è la propria situazione, applicare l'aliquota, fare i calcoli eccetera. Il tutto, diciamo, in una situazione in cui dobbiamo anche ricordare che comunque ci sono i cittadini che sono proprietari di immobili in 2500 comuni, quali avevano già deciso, hanno già pagato, avevano già deliberato la TASI, hanno già pagato a giugno, poi ci sono state le proroghe, adesso c'è questo nuovo termine che riguarda tutti quelli cui immobili sono situati nei comuni che delibereranno entro domani e con pubblicazione sul sito del Ministero delle Finanze dell'Economia entro il 18. Per tutti gli altri ci sarà un'altra scadenza che sarà il 16 dicembre, applicando le aliquote, diciamo, minime standard fissate dalla legge statale, cioè l'1 per 1000 senza detrazioni. Quindi è complicato, come al solito, diciamo, pagare è brutto, insomma, spiace sempre, cioè, a volte uno si rende conto che è giusto farlo, siamo cittadini, eccetera. Però qui il problema è che nessuno è messo nelle condizioni di poterlo fare in serenità, cioè prendendo, magari ricevendo anche a casa un bollettino già precompilato con l'importo, la data entro cui lo deve fare, e così si risolvono i problemi. E poi naturalmente tutto questo da un punto di vista di bilancio familiare è devastante, perché non sei in grado di programmare nulla. Certamente, perché tu alla fine dell'anno, o siamo a settembre, insomma a settembre ancora non sai se dovrai destinare a questa tassa 100, 200, 300, 500, 1000 euro eccetera, e quindi chiaramente ti mette in difficoltà, sì. Questo è evidente. Dico, insomma, anche se gli 80 euro avessero potuto avere un qualche impatto, fatto che è subiudice, diciamo così, un qualche impatto sull'economia e sui consumi, di certo una cosa di questo genere non lo avrà, perché navighi nell'incertezza di quanto dovrai pagare di tasse alla fine dell'anno, il 16 ottobre o il 16 dicembre o chissà quando. E questo dal punto di vista dell'incertezza. E poi l'ultima questione sulla quale ti volevo portare è questa della trasparenza, perché secondo me è un'altra questione fondamentale, no? Il tema è servizi indivisibili. Il comune dovrebbe avere uno schemino sostanzialmente nel quale ti dice contiamo di incassare questo, spenderemo questi soldi per la manutenzione delle strade, questi soldi per l'illuminazione, eccetera eccetera. Anche qua mi sembra ci siano parecchie carenze. Sì, ci sono carenze su questo fronte. Devo dire che io, così guardando un po' online le delibere dei comuni, diciamo qualcuno un po' più diligente che ha indicato, insomma, in modo analitico voce per voce i costi dei servizi indivisibili e quanto, diciamo, verrebbe ricavato dalla TASI, l'ho visto. C'è un altro elemento, secondo me, di trasparenza sul quale forse vale la pena riflettere, cioè il fatto che i comuni quest'anno hanno la possibilità di incrementare le aliquote, diciamo, rispetto ai loro livelli massimi. Quindi, ad esempio, per la prima casa dal 2,5 per 1000 il comune può aumentare di un ulteriore 0,8 per 1000 per destinare, diciamo, i maggiori introiti così incassati alle detrazioni. Ecco, qui ci servirebbe trasparenza, cioè io vorrei sapere se i comuni che hanno applicato un'aliquota più alta sulla prima casa del 2,5 per 1000 ci diranno poi quanti di questi soldi verranno effettivamente spesi per favorire le famiglie meno abbienti e quindi per concedere detrazioni sulla TASI a chi ha meno possibilità. Questo è un altro elemento del quale si è parlato un po' meno. Perché là il rischio qual è? Che poi ti ritrovi con le famose esigenze esigenze di bilancio straordinarie, la microalluvione, l'elemento per cui quei soldi finisce che non li spendi per le detrazioni. Bravissimo. Ma li spendi, ma li metti in bilancio da qualche hai parte. Hai capito perfettamente. E qua naturalmente la vigilanza deve essere strettissima. Ma ti domando una cosa, ma c'è qualcuno che deve fare vigilanza su questo o dobbiamo essere noi? Perché questo è un elemento fondamentale. Ma lì, diciamo, c'è un problema, una questione legata al modo in cui questa norma è stata scritta, cioè questo discorso della trasparenza al quale noi ci stiamo riferendo ora effettivamente deriva da una norma che è scritta molto male, che quindi ognuno interpreta come vuole, che è aggirabile in 10.000 modi, che non impone di fatto nessun obbligo reale ai comuni, eccetera. E poi la vigilanza la dobbiamo fare noi, ad esempio noi giornali, no? Noi giornalisti abbiamo sicuramente questo compito, no? Di verificare che le cose siano fatte in modo giusto, in modo equo, che non nessuno, diciamo, cerchi di trarre vantaggi in modo sciocco, no? da queste cose. Nessun, diciamo, non c'è un organismo, se questa era la domanda, non c'è un ministero delle finanze o chi altro che deve controllare questa cosa. Probabilmente a un certo punto la Corte dei Conti, immagino, le sezioni insomma, regionali e provinciali si metteranno a fare dei controlli e tra qualche anno scopriremo che qualche comune ha speso i quattrini derivanti dalla maggiore aliquota per qualcos'altro. Ma ormai avremo già pagato. Esatto, avremo già pagato, sarà troppo tardi, sarà cambiata amministrazione e quindi anche sui responsabili non si potrà più agire. Grazie a Salvatore Padura. Grazie, vice direttore del Sole 24 Ore, grazie a Pietro La Corte in regia, Barbara Bianchi e Mauro Del Corno in assistenza e in redazione. Un grazie a tutti voi per l'ascolto. Da Simone Spezia vi auguro una buona serata. Domani torna Sebastiano Barisoni alle 17. Per quanto mi riguarda, vi aspetto alle 13 con Effetto Giorno. Radio 24, la passione si sente.